EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche. Dagli studi di Radio 24 in Milano trasmettiamo ora la trasmissione 1, nessuno 100 Milan. Ascoltatela, è una trasmissione italianissima. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, uno, nessuno, 100 Milan, siamo in diretta fino alle 11, come di consueto, per una nuova puntata con l'Alpino in regia, con la nostra redazione Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e con il nostro Luca Cremonese che è lì a fianco all'Alpino ad aiutarci oggi. Insomma, ci siamo quasi tutti perché Leonardo Manera con la sua zucchina mesta in frigorifero arriva attorno alle 9.30, lo sapete. Come al solito abbiamo tanti temi da affrontare. Sentiamo cosa è successo oggi, dai, andiamo Milan, andiamo, dai. Appunto. Tanti temi, vai subito Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Non dedicherò mezzo secondo, tanto leggerete tanti articoli dei retroscenisti che non possono credere di essere tornati protagonisti sui giornali. Retroscenisti, coloro che scrivono in retroscena della politica e ci raccontano che oggi, lo dico molto brutalmente con un titolo, sembra che stia franando tutto tra PD e Conte, ma domani magari staranno tutti a meraviglia. E i retroscena della politica sono così. Il termometro di ieri, raccontato oggi sui giornali, racconta febbre alta, tensione, tutto che slitta e pare soprattutto liti Franceschini-Conte, per cui crolla tutto. Boh, ecco, ho dedicato già troppi secondi a questa vicenda di fantapolitica, vedremo. Gli italiani sono preoccupati più per la cassa integrazione che non arriva, per i soldi che non arrivano, qualcuno dice farò almeno 10 giorni di vacanza, non si sa, andremo in giro, a settembre quando ripartiremo avremo ancora il posto di lavoro. Credo che queste siano le domande che si facciano gli italiani in questo momento, non tanto c'è una crisi politica oppure no. In ogni caso, ci sono tanti temi appunto di cui voglio parlare. Ce n'è uno che voglio introdurre con un articolo che mi ha colpito un po', se volete, spassoso, ma è inerente al tema che affrontiamo in maniera invece molto seria. Cosa è successo, la parte spassosa? La lite in casa Maionchi. Mi ha incuriosito Mara Maionchi, conosciuta da tutti, e il marito. Sono insieme da 45 anni, solo che ieri il marito è andato sui social e si è scagliato contro i tanti omosessuali su Rai 1. Cioè non è che si è scagliato contro gli omosessuali, però ha detto ma che c'è una lobby di omosessuali? Non c'è programma che non abbia un omosessuale. E Mara Maionchi ha replicato via social: ma cosa cazzo dici? Ti tolgo i social. E poi non sappiamo come sia finita la discussione ieri a cena, però il tema che possiamo raccontare così con un sorriso diventa molto serio se invece raccontiamo quello che è successo a Pescara. Io per questo saluto il sindaco, che ringrazio, Carlo Masci, sindaco di Pescara, buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e un caro saluto ai radioascoltatori. Dobbiamo chiarire, perché effettivamente io so già che non è così come qualcuno ha raccontato sui giornali, adesso lei ce lo dirà, ma ieri quando leggevo Michela Marzano sulla Stampa, Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, cito come dire due autorevoli giornalisti, scrittori, che hanno scritto c'è stata un'aggressione a un ragazzo omosessuale a Pescara, mascella fratturata, tra l'altro aggressione pesante da parte di 7 ragazzi, e leggevo il comune non si costituirà parte civile nell'eventuale processo. Allora, intanto sindaco, questo credo che lei lo debba e lo possa smentire, è così? Sì, lo smentisco categoricamente, perché il comune si costituirà parte civile. E io l'ho detto pubblicamente e l'ho detto in consiglio comunale, perché la costituzione di parte civile la decide il sindaco, e mi sono espresso chiaramente sull'argomento, perché un atto delinquenziale e criminoso come quello che si è svolto a Pescara, soprattutto se rivolto verso un ragazzo per il suo orientamento sessuale, è ancora più grave, e quindi il comune di Pescara, siccome appare per quello che non è e Pescara appare per quella che non è, sicuramente la costituzione di parte civile verrà fatta, perché questo. E perché che allora è emerso in qualche modo il contrario? Perché c'è stata una mozione in consiglio comunale promossa dal centro-sinistra, è una giunta di centrodestra, è un sindaco di centrodestra, che è stata bocciata dal consiglio comunale. Da lì forse è nato l'equivoco. Cioè sembrava che con la bocciatura di quella mozione il comune non volesse costituirsi parte civile. Non è così? Non è così, perché intanto era un ordine del giorno che comprendeva, oltre che la costituzione di parte civile, altre proposte che i consiglieri di centrodestra che hanno bocciato quella mozione non ritenevano di dover discutere con un ordine del giorno che è un atto politico, non ha nessun valore amministrativo, mentre la costituzione di parte civile si fa con una delibera di giunta e non con un ordine del giorno del Consiglio. Quindi io, nell'intervento che ho fatto in Consiglio Comunale, in cui ho chiesto al centro-sinistra e al centro-destra di trovare un'intesa e una posizione comune su un tema delicato che comunque interessa tutti e soprattutto tocca le sensibilità di tante persone, quindi era importante fare un punto di convergenza soprattutto sulla costituzione di parte civile e sulla ferma condanna dell'aggressione da parte di questi sette che sembrerebbero essere minorenni e che devono essere educati, ma prima di loro devono essere rieducati i genitori, perché il problema è sociale, perché se c'è una subcultura che fa sì che i nostri giovani si comportino in maniera delinquenziale su determinati argomenti, allora è questo che ci deve far riflettere. Quindi, sì, lei dice quindi costituzione di parte civile, sì, ma diciamo quell'ordine del giorno non è passato perché c'erano. Ma non è passato. Dopo che io ho fatto il mio intervento in cui ho chiesto un atto di condivisione e di responsabilità oltre le scaramucce politiche, perché il tema è questo, il confronto politico, la logomachia che comunque alimenta polemiche a non finire, ho chiesto su questo tema non dividetevi ma condividete una posizione comune. Però il sindaco, le chiedo questo, c'è stata una polemica i giorni scorsi, vi è stato l'Abruzzo Pride e qualcuno dice lei ha negato una piazza per la manifestazione. Questa purtroppo è un'altra falsità smentita dalle carte, perché l'Abruzzo Pride che si è svolto a Pescara per 7 giorni in piena tranquillità ha richiesto una piazza per organizzare il flash mob, richiesta ha indicato 3 aree di Pescara, tutte e 3 di grande pregio: Piazza Primo Maggio al centro della città, la Madonnina che è a fianco al Ponte del Mare, che è lo spazio più fotografato di Pescara perché è una cartolina, e poi Piazza Safotto che è la piazza di Pescara. Quindi ha chiesto 3 spazi, tutti e 3 pregevoli e di grandissima qualità e di livello. Io di questi 3 spazi ne ho concesso ovviamente uno, perché il flash mob si svolgeva in uno spazio, e ho concesso lo spazio della Madonnina al Ponte del Mare. È sorta una polemica Negati Piazza Primo Maggio, ma se l'organizzazione mi richiede 3 piazze e io gliene concedo una delle 3, non credo di aver negato alle altre 2, perché io una ne dovevo concedere. La manifestazione si è svolta con grande tranquillità. Quindi la polemica. Sindaco, la cosa importante è questa, cioè che secondo me, che anche per smentire quello che è apparso su tanti giornali autorevoli ieri, dei commenti importanti, cioè lei non ha, come dire, né personalmente l'istituzione Pescara niente contro gli omosessuali. Ma insomma, questa stiamo scherzando, cioè una frase del genere è follia pura. Io chiederò a Gramellini di smentire quello che ha scritto. Io sto scrivendo una lettera a Granellini in cui preciso la mia posizione, che è quella che risulta dal mio intervento in Consiglio Comunale, che tutti quanti possono ascoltare, perché è un intervento lineare, chiaro, apprezzato anche dall'opposizione. Poi purtroppo lo scontro politico in cui io non c'ero, poi, perché io sono andato via dal Consiglio nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha detto sedetevi ai capigruppo per trovare un'intesa così come il sindaco ha indicato. Poi le polemiche politiche sono un'altra cosa, non interessano neanche ai cittadini. Quindi su polemiche politiche costruire delle elucubrazioni mentali attraverso falsità sinceramente fa male, e fa male anche alla città di Pescara, che è una città liberale, aperta, accogliente, tollerante, e Pescara la conoscono tutti quanti, la definiscono una piccola Barcellona, una piccola Miami, proprio perché è una città libera, aperta, solare. Figuriamoci se Pescara può apparire come una città omofobica o contro qualsiasi situazione. Ma infatti io sono contento, insomma, di averla avuta qui per chiarire questa questione. Vedremo se poi Gramellini, insomma, pubblicherà una smentita. Intanto io la ringrazio, Carlo Masci, sindaco di Pescara, per questa aggressione. Tra l'altro guardate che è stata un'aggressione terribile, cioè questo ragazzo ha riportato la frattura della mascella, della mandibola, e ne avrà per un lungo percorso. È stato aggredito a calci e pugni da 7, abbiamo scoperto, adolescenti, addirittura adolescenti, diciamo minorenni, incredibile. Qualcuno ha sottolineato che sarebbe più incredibile ancora il fatto che lo stesso ragazzo l'ha detto, che ci fosse anche una ragazza tra gli aggressori. Ma si sa, quando poi si fa gruppo non è che non ci possono essere anche delle ragazzine, come dire, aggressive. Certo, la maggior parte erano ragazzi. Va bene, sono le 9:20 minuti. Io voglio accogliere la mia prossima ospite con una musica. Posso farvi sentire solo la musica di uno spot che forse avete visto, ideato da Klaus Davi, che ieri era ospite a battagliare alla Zanzara da Giuseppe Cruciani. È uno spot con una musica anche un po' in crescendo. Sembra inquietante, ma le immagini in realtà sono bellissime, meravigliose, con delle scritte sotto. È uno spot pro Calabria, a favore delle meraviglie, tante meraviglie della Calabria: il mare, la cultura, la storia, i paesaggi, la gastronomia. E certo, ci sono delle scritte che hanno fatto infuriare un po' qualcuno, perché non è che Klaus Davi ha detto venite in Calabria, è meravigliosa, ma è partito dal Veneto dicendo questi, ecco, c'erano dei litorali del Veneto inquadrati, erano luoghi meravigliosi, ma poi l'inquinamento, il Covid, anzi attenzione, ho scoperto da oggi dall'Accademia della Crusca, il nostro amico Accademia della Crusca, presidente Marazzini, che si deve dire la Covid. Insomma, ci sono la malattia, l'inquinamento, il non rispetto del suolo, il non rispetto del territorio, questo in Veneto, e quindi venite in Calabria, che messa così sembra un po' una guerra all'ultimo turista. Saluto Elena Donazzan, che ritrovo con piacere. Buongiorno. Buongiorno, fieramente dal Veneto più bello del mondo. Oh, senza territorio sfruttato, senza inquinamento. No, devo dire di no, anzi, devo dire che questa è tra i territori più belli del mondo, e devo dire che tutta la nostra Italia è bellissima. Infatti io non ho proprio capito questo messaggio che è stato dato. Oggi abbiamo un problema di richiamare i turisti del mondo. Noi in Veneto, ma sono pochi, sono pochi questi turisti, bisogna farsi la guerra, capisce? Francamente, guardi, io l'ho trovato molto sbagliato, mi ha fatto arrabbiare moltissimo. Poi ho pensato, ma perché devo prendermela con loro? Io racconto quanto è bello il mio Veneto, quanto ci sia, anche in termini di turismo, grandissima capacità di organizzazione. Noi da Jesolo possiamo raggiungere Venezia in 20 minuti, possiamo andare a Verona in un'ora circa, possiamo raggiungere le Dolomiti in meno di un'ora. possiamo andare in tutte le città d'arte con chi è che ha la scacchiera in una piazza come Marostica o un ponte di legno di Palladio come Bassano Sgraffa. Guardi, potrei stare qui delle ore. Ma no, ma infatti, ma guardi, poi non è la sua competenza il turismo, cioè no, non è lei assessore all'istruzione, formazione, però è veneta e giustamente si sarà forse un po' risentita, ma neanche tanto mi sembra, cioè dice non andiamo dietro a queste polemiche. No, lo stavo sbagliato, peraltro guardate, se volete venire nel territorio più sicuro, in termini proprio di sanità, qui, e quanti calabresi purtroppo sono costretti a lasciare la Calabria per venire a curarsi all'ospedale di Vicenza, all'ospedale di Padova, quindi io non vorrei proprio metterla su questo punto. Su eh? Questo piano no, però no. Insomma è un po' vero che purtroppo con la carenza di turisti non verranno dagli Stati Uniti, non verranno dalla Russia, ognuno si accaparra. Quest'anno chi andrà in vacanza andrà in Italia, si cerca in qualche modo di accaparrarsi i pochi turisti che ci sono. Però Elena Donazzani, io l'ho anche chiamata perché lei è assessore all'istruzione e mi ha colpito questa notizia secondo la quale ci sono 85.000 cattedre scoperte. Questa è una questione vera. Quanti insegnanti dal sud vanno al nord? Quest'anno 85.000 aule cattedre scoperte, perché pare forse qualcuno avrà anche paura a venire a insegnare. Allora ho detto, ma pensa un po', si realizza un po' il sogno che aveva la Donazzani, io non sbaglio anche dire insegnanti veneti in Veneto, insegnanti lombardi in Lombardia, no? Bene, intanto, cioè c'è voluto... mi lusinga Milan che lei con tutti gli straordinari ospiti si ricordi di me, di questo, però io la ringrazio perché è esattamente quello che ci eravamo detti, lei mi aveva anche provocato rispetto a questo e io allora, ma oggi con ancora maggiore convinzione dico, se c'è un fabbisogno di cattedre scoperte in una regione, perché non immaginare concorsi che abbiano esattamente il numero di posti che quello di quella regione? E ovviamente la richiesta è naturale che sia fatta prima dai regionali, invece a noi viene impedito di fare i concorsi. Il Veneto ha esaurito le sue graduatorie, le graduatorie del sud sono piene di posti lì. E sa che cosa ha fatto questo fenomeno di governo? Azzolina in testa. Quando hanno fatto il decreto legge, convertito in legge sulla scuola, hanno detto prima di andare a recuperare insegnanti dal sud, quelli del sud ovviamente devono fare coprire tutte le loro cattedre, poi devono mettersi in disponibilità. Cioè io rischio di avere insegnanti a novembre in Veneto. Sì, sa cosa? L'altra volta avevamo parlato perché lei proponeva anche stipendi differenziati tra regione e regione, che era una cosa che aveva fatto arrabbiare molti sindacati, cioè in nome dell'autonomia la scuola, la regione che può permettersi magari degli stipendi maggiori per i propri insegnanti può farlo. Perché no, se questo fosse legato al merito, io non dico mica tutti, io sono molto convinta che gli insegnanti in Italia siano sottopagati in generale, e perché se una regione non proprio in termini di autonomia dell'organizzazione, di reclutamento, di concorsi che guardi sono stati annunciati e non sono stati fatti, e io mi trovo oggi con una carenza di insegnanti, senza mai dimenticare che alcuni insegnanti diplomati magistrali, circa 2000 in Veneto, sono licenziati e rimangono a casa. Quindi il paradosso è ho posti scoperti, ho insegnanti che hanno lavorato per 10-12 anni, che hanno superato l'anno di prova, che sanno insegnare, che stanno a casa. E non posso neanche pensare, anche in termini di organizzazione, di fare un concorso su base regionale e magari quelli bravi premiare, perché la Regione del Veneto deciderebbe magari di investire in ambito dell'istruzione. Perché no? Questo sistema oggi, credo, si dimostra che non funziona. Ma mi faccia capire, quindi a settembre, quando riparte la scuola, ci saranno dei problemi per la copertura delle cattedre? Grandissimi, per dottor regione. Milan. Per la mia regione e per larga parte di regioni ma del si, nord. Ma si capisce se la maggior parte delle cattedre sono scoperte perché ci sono insegnanti di alcune specifiche regioni che magari proprio per paura lo ammettono, dicono non vengono in Veneto? Cioè si riesce ad andare nei dettagli oppure al momento è solo un numero? No, per il momento è solo un numero, si fa questo calcolo, cioè il Ministero dà un organico di diritto, quindi quanti posti sono a disposizione, perché il numero di studenti, peraltro attenzione, quest'anno avremo anche tardivamente, il Ministero dà il parametro del distanziamento e quindi con tutta probabilità ci sarà bisogno anche di qualche insegnante in più, quindi quanti posti sono a disposizione, quante cattedre sono di precari, perché con le supplenze annuali, e quindi questo è un dato che la scuola conosce da anni, per queste cattedre con supplenze annuali avrebbero dovuto immaginare un concorso per portarli al ruolo. Questo concorso annunciato non è stato fatto. Al sud, questa è la differenza, i concorsi negli anni passati vennero fatti e autorizzati ben oltre il numero di posti disponibili. Ecco dove è stata la cattiva programmazione, forse la furbizia, però a me non piace essere furba, preferisco essere considerata un po' polentona e veneta, ma rispettosa delle regole. Ecco, guardi che arrivano i banchi dinamici, non ho capito bene che cosa siano. Perché sorride? Mi ha detto perché... che arrivano i banchi dinamici, cioè più colorati, che poi non vuol dire più colorati, però i banchi dinamici sono i bianchi che si spostano e io non li ho mai visti. Però, guardi, da soli magari, però, oppure con l'inceneggiazione autoprodotta, perché qui tra plexiglass, mascherine sempre, distanziamenti che magari dovremmo avere dei campi da calcio, o addirittura l'invenzione di fare tensostrutture, lei si immagina a Belluno o ad Asiago, andare a scuola a gennaio tra una tenda. Quello sì, è vero. Però bisogna attrezzarsi, a dire, che ne so, le scuole che hanno delle palestre bisognerà utilizzarle come scuole, chi ha un teatro, cioè utilizzare ogni essere un po' flessibili, no? Ogni struttura all'interno di una scuola coperta, per carità, dovrà essere utilizzata, altrimenti... Guardi Milan, io ieri ho già fatto il secondo tavolo regionale sull'organizzazione, proprio partendo dall'uso degli spazi. E devo dire che con l'intelligenza dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che non è del Veneto, è il Ministero su base territoriale, noi già abbiamo immaginato anche modalità. E quello che ci rammarica, anzi no, ci indigna, forse ci fa pure arrabbiare, è che il Comitato Tecnico Scientifico un mese fa diede qualche indicazione in termini di distanza, poi lasciamo perdere come hanno definito la bocca, perché insomma sì, è quello che usano. Sì, ho sentito una sua trasmissione nello specifico. Quindi un mese fa ci danno queste indicazioni, poi tutto silenzio in attesa di questo piano scuola. Comitato di qua, esperti di là, azzolina in mezzo, prodotto nulla, licenziati di fatto quelli del comitato tecnico, che erano anche fior fior di docenti. Bene, noi siamo arrivati a qualche giorno fa, una settimana fa, ad avere un documento che le regioni italiane hanno considerato irricevibile. Lei, io faccio la domanda a lei, siamo a luglio, ma le pare normale che la scuola che è chiusa da febbraio? Ecco. Ma questo sì, che ci sia stato un ritardo, ma questo vale, guardi, devo dire, non per difendere questo governo, vale per qualsiasi governo, è un po' lo stile italiano, cercare di mettere una pezza e non programmare con una grande visione. Comunque, adesso c'è voluto il Covid, anzi la Covid, sai che ho scoperto appunto anch'io dall'Accademia della Crusta che si dice la Covid, non si possono fare battute, assessore Donazzan, sul fatto che le disgrazie siano tutte al femminile, l'hanno già fatta questa battuta, però la disgrazia secondo me è quando si violenta COVID. La lingua italiana, poi ma si dice così, è la malattia, la Covid, questo almeno ci ha fatto sapere la Crusca. Comunque io la ringrazio, Elena Donazzan, assessore regionale in Veneto, con le deleghe tra l'altro all'istruzione, per essere stata con noi. Andiamo a sentire un attimo di pubblicità, poi qualche ascoltatore insieme all'arrivo di Vestagliona Manera. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ti sei accorto che hai fatto un'affermazione sessista? C'è una ragazzina non può essere cattiva come un ragazzino. Dove sta scritto? Forse perché doveva giocare con le bambole da piccola? E dopo l'enigma del lavar o il var, il Covid o la Covid? Scusate, Klaus Davi chi? Adesso, insomma, Klaus Davide, che dobbiamo fare? Attenzione, direttamente dal Tibet è arrivato Leonardo Manera. Buongiorno. La pace interiore. Lamentate sempre dei miei rumori fastidiosi, stamattina ho voluto accogliervi invece con un rumore rilassante, ecco. Che rumore fa? Ma per caso, io l'ho azzeccato, è quella... Sono quelle campanelle disposte come una sorta di albero, per cui sopra ce n'è una, poi tre, poi cinque, con un martelletto di legno. Di legno percuote. O di altro tipo, ad ogni modo, sì, sì, è esattamente quello. Esattamente. L'ho messo sul mio balcone e quando voglio rilassarmi vengo qui. Ho anche la campana tibetana, Ti faccio sentire anche la campana tibetana? Vai. Questa vibra, devi metterla su una base morbida. Non e 38. No. Io senti, farei un'ora tutta così. Puoi fare di relax. Un bel toccone così fino alle 10 e andiamo avanti. Ma sai che relax, per tutti quelli che adesso sono usciti di nuovo di casa e hanno dei problemi di ansia, di stress, facciamo un'ora di campana tibetana. Adesso Peter è andato sui siti dove ci sono i massaggi, quelli un po' che finiscono. E adesso, cari amici, respirate profondamente a pancia in alto, sentite l'aria che entra attraverso il vostro corpo e vi dà l'energia per vivere. L'aria che attraversa l'esofago scende nei polmoni, arriva nella pancia e sentite tutto il benessere che vi porta, e quando buttate fuori l'aria, insieme all'aria che esce, buttate fuori anche tutti i vostri problemi e sentitevi rigenerati dall'aria che vi dà nutrimento, vi dà vita e entra dentro di voi, cari amici. Respirate con il diaframma, gonfiate il diaframma e poi buttate fuori l'aria. E insieme all'aria buttate fuori tensioni, ansie, preoccupazioni. State un po' meglio, non è vero? Guarda, io mi stavo già rilassando ed ero... Ma pare una strunza! Non è vero, è stato un momento di grande rilassatezza. Di grande radio. Basta ti ero con talmente... le polemiche. Sì, basta, sì, ero molto... basta, Klaus Davi, che fa le cose solo per polemizzare, perché sa che la visibilità arriva attraverso le polemiche. Noi abbiamo l'approccio opposto, ecco. Sì, la visibilità, sì, quella poca che c'è, attraverso il relax, attraverso l'aria che entra ed esce dal tuo corpo. Visto che siamo in un momento di relax, io voglio rovinarmelo. No, scherzo. Però abbiamo chiamato, e io spero sia lei, la mitica Manuela da Milano, che mi mancava tantissimo. Manuela, è la nostra Manuela, la nostra amica psicologa Manuela? Sì, buongiorno Milan, sono io. Oh, buongiorno anche a Manera. Che bello. Buongiorno anche a Manera. Oggi come Manuela sta? Mi sembra più anche lei più rilassata del solito. Esatto, no, esatto, ho sentito la campana tibetana. No, magari. Assolutamente, no. Perché non ho ancora cominciato. Ah, ecco, attenzione, adesso mi metto con l'elmetto. Prego Manuela, vada. No, vada. Allora, sono rimasta molto colpita dalla polemica tipo Casa Vianello tra Mara Maionchi e suo marito. Devo dire che io sono completamente dalla parte del marito della Maionchi, perché il marito della Maionchi ha perfettamente ragione e io lo posso testimoniare, perché in certi ricordiamo ambienti... cosa ha detto. Ha detto sui social, guardando qualche TV, Rai 1, dicendo: ma com'è possibile che è così pieno di gay? Cioè, poi dicono che non esiste la lobby gay. Ogni trasmissione c'è un gay. Io stavo appunto dicendo che appunto gli omosessuali in alcuni ambiti lavorativi godono di privilegi che, per esempio, nel mondo universitario godono per esempio i comunisti, i postcomunisti, i cattocomunisti, quindi se vuoi ottenere un dottorato di ricerca di tipo come di me. Cose. Cioè, sì, esatto, io per esempio se chiedo un dottorato di ricerca me lo danno subito. Assolutamente a gratis proprio. Ecco, vorrei essere pagato, proprio, cioè basta essere, ripeto, dimostrare di essere catto comunisti, catto progressisti. Condivido, è vero, quello che dice Manuela, sono d'accordo. Garozzo del Partito Supersovranista Italiano, quello che dice Manuela. Brava Manuela, perché la nostra Manuela è un po' è un po' del Pissi, è un po' del Pissi. Partito super sovranista italiano, bravo Manuela. E poi volevo, poi volevo passare alla parte seria, volevo dire che da, da psicologa psicoanalista io noto che c'è un vero e proprio attacco alla femminilità, ma questo già lo sappiamo, perché fino a, fino a qualche anno fa le donne che volevano dedicarsi solo ed esclusivamente alla maternità e alla casa venivano rappresentate in maniera un po' caricaturale. Oggi l'immagine stereotipata è la donna superwoman, quella che fa tutto e che quindi alla fine della giornata si deve tirare la cocaina perché le 24 ore del giorno non bastano. Adesso siamo passati alla fase 2 del piano, cioè la ridicolizzazione del maschio. Se una persona è un maschio preferibilmente bianco, anche di successo, eterosessuale, e vive questa sua eterosessualità in maniera molto gioiosa, senza, senza complessi, senza compromessi, è il maschio tossico. Ecco, ma il perché? Maschio cioè, tossico. Che esempio, per esempio, non so, io tutti i calciatori che sono eterosessuali e sono appunto, con le veline molto spesso a fianco. Vengono additate al pubblico ludibrio come esempio di maschio tossico, ma vogliamo pensare anche a Berlusconi, il maschio tossico, cioè semplicemente perché è un uomo, ripeto, eterosessuale di successo. Se Berlusconi fosse stato omosessuale, secondo lei lo avrebbero ricoperto di improperi perché a Palazzo Grazioli? Ma di Berlusconi qualche donna si è arrabbiata perché esibiva la Presidente del Consiglio, come con le battute, con le barzellette, con vabbè, un po' un atteggiamento così. In effetti questo ha portato alla terza guerra mondiale, cioè questo atteggiamento di Berlusconi un po' così scanzonato effettivamente ha portato alla terza guerra mondiale, obiettivamente, no? Ha avuto degli strascichi terrificanti sulla politica nazionale e internazionale. Insomma, Manuela dice il maschio eterosessuale ormai è definito, se è eterosessuale, se ama le donne. Maschio eterosessuale tossico. Di successo, che vive gioiosamente, che esibisce la propria eterosessualità. Ma a chi pensa, per esempio, a chi pensa a parte Berlusconi, ha un'idea, Manuela? Ma in generale anche l'atteggiamento che si ha verso, per esempio, Trump. Molto spesso Trump, più che per le sue idee politiche, viene criticato per questo suo atteggiamento che ha nella vita. Vabbè, è un uomo ricco, per esempio, successo. Ma a me Trump dà fastidio se twitta il post dei suprematisti bianchi, cioè quello vuol dire che sei un razzista fatto e finito, cioè non me ne frega se dice ho avuto guardi, posso assicurare che c'è una larga parte dell'intelligenza che spinge molto su questo. Guardi, le posso assicurare che ci sono persone che sarebbero disposte a votare un pazzoide che sgancia bombe nucleari perché sia omosessuale, cioè guardi, io glielo posso assicurare, perché lei probabilmente non conosce il livello di fanatismo che cova all'interno di certi ambienti, ma io le posso assicurare che non c'è nulla da ridere. E quindi volevo lanciare un appello a chi ha potere di proteggere il maschio eterosessuale e quindi di istituire il reato di eterofobia. Ma in che modo li proteggiamo i maschi eterosessuali? Il reato di eterofobia. Il reato di eterofobia è ovvio, mi sembra la cosa, perché tra un po' questa è la proposta di Manuela da Milano. Basta questa cosa, l'omofobia, l'eterofobia, basta attaccare i maschi e anche le femmine, penso, no? Eterosessuali che vivono gioiosamente ed esibiscono con gioia la loro eterosessualità. Oh, tu esibisci un po', ti ho visto un po' esibire la tua eterosessualità, caro. No, io adesso so che mi darebbero gratis un dottorato di ricerca in una qualsiasi università in quanto catto comunista. No, io ti ho visto esibire la tua eterosessualità lì al bar della radio. Esibisci gioiosamente. Ma se non ci vado da 4 mesi, l'hai sempre esibita, te l'ha detto anche la barista, ricorda quello che ti ha detto la barista una volta. Se me lo ricordi, smettila di esibire la tua eterosessualità, ti ha detto la barista. Ecco, oggi quindi, così tenta di mettermi in difficoltà, ma io non ho problemi perché mi metta a ridere su queste cose. Esibizionista, ma tu non ti ricordi, ma se c'hai il cervello di Dory, il pesciolino, non ti ricordi neanche quello che hai detto 10 minuti prima. Cosa vuoi ricordarti di quello che io avrei detto 6 mesi fa? Te l'ha detto la barista. La barista ma che sì, ha non ti ricordi neanche di quello che ha detto la barista. Ah, ma la barista millantare. Che ti piace? Quella che ti piace? Quella che mi fai dei pipponi così? Che vorresti esattamente uscire lei? Certo. Ci sono anche già uscito un paio di volte a tua insaputa. Ecco. Traffico. 1, nessuno, 100 Milan. No Milan, il virus, il Covid. L'ipotesi di utilizzare le palestre al posto delle aule scolastiche è una follia che significherebbe azzerare qualsiasi attività sportiva per tutti i ragazzi e i giovani italiani. Sono centinaia di migliaia di ragazzi che attraverso le società sportive dilettantistiche utilizzano gli spazi delle scuole nel pomeriggio quando non sono utilizzate per le loro attività. È impensabile. Ma quale campane tibetane, Manera? Sono vacche che scendono dall'alpeggio, sono campanacci. Di vacche che scendono dall'alpeggio e vanno giù a valle. È vero, sottoscrivo quello che ha detto l'ascoltatore sulle società sportive, anche nella squadra mitica e mitologica di mio figlio Mattia, il Sanga Basket, si è lanciato già questo allarme, ma se si utilizzano mettendo i banchi le palestre dove si allenano i ragazzi che in genere si allenano nelle palestre delle scuole nel pomeriggio, così nelle classi, dentro le classi. Nelle classi, giusto? Non c'avevo più. Nei teatri. Io ho già dato... il campo da basket è così, in verticale, nei teatri, sì. Tra le Leo sedie, risolve sì. Facile. A Leo risolve facile. Allora, come ci dice la mia amica Saretta, la malattia Covid, il virus SARS-CoV-2, come spiega Paolo Giordano nel suo libro, nel suo ultimo libro, quindi è la Covid, rassegnatevi, la Covid. Mamma mia, una roba bruttissima. Polemiche la sterili. COVID. Rilanceremo sì, la sì. nostra rubrica vai. Delle polemiche sterili. Vai, allora, vai. Oggi tra poco parleremo di uomini che fanno lavori di casa. Io che sono andato a vivere da solo già quando avevo 19 anni, i lavori di casa ho dovuto imparare a farli per forza, anche perché inizialmente guadagnavo così poco che non mi sarei potuto permettere un aiuto. È anche vero che abitavo in una casa così piccola che non ci voleva molto per tenerla pulita, ma quando non sei abituato, anche solo passare lo straccio della polvere diventa troppo impegnativo. E allora si preferisce continuare a vedere la polvere che si accumula in tutti gli angoli, finché poi diventa un pupazzo di acari che si muove da solo in casa e in fondo ti fa compagnia. L'unto dal piano cottura inizialmente non è invadente, capisci che c'è, ma in fondo è solo una traccia. Poi tutto l'acciaio diventa opaco, sugo dopo sugo, bistecca dopo bistecca, sofficino dopo sofficino e alla fine diventa uno strato semisolido sul quale puoi anche piantare gli spiedini dopo averli mangiati. E mese dopo mese il piano cottura diventa uno steccato di spiedini. Rifare il letto in modo che le lenzuola siano ben tese agli angoli del materasso è una chimera. Si dorme tra coperte e federe sempre più stropicciate che scivolano inesorabilmente da una sola parte. Ci vorrebbe poco, ma pigrizia alla meglio e si preferisce soprassedere finendo per mangiare sul letto e sopportando anche briciole di pane sparse qua e là che rendono fastidioso perfino dormire. Ma si preferisce l'insonnia al togliere le briciole anche se il lavoro costerebbe pochi minuti. I capelli, quando ancora li avevo, si attorcigliavano tutti intorno al tappo del lavandino oppure intorno allo scarico della doccia fino a impedire il normale defluire dell'acqua. Lo specchio del bagno sempre più opaco, sicché a un certo punto ero obbligato a utilizzare quello dell'ascensore condominiale. Il calcare, poi non eliminato regolarmente, si impossessava poco alla volta di tutti i sanitari del bagno, rendendo il box doccia, pur di vetro, marrone come un palazzo degli anni 60. Per terra poi c'era la moquette, dentro la quale si era creato un piccolo ecosistema che non ho mai voluto indagare fino in fondo per il terrore di trovare qualche nuova creatura o qualche virus che certamente avrebbe potuto provocare una pandemia se solo si fosse avventurato fuori da quel monolocale. Insomma, quel mio primo monolocale, dove avrei dovuto fare le pulizie, era tutto fuorché il regno del pulito, ma per un uomo che vive solo, in fondo poteva anche andare. Il problema si è posto la prima volta che una ragazza ha accettato di venire a cena a casa mia. A quel punto ho guardato quell'ambiente non come lo vedevo io tutti i giorni, assuefatto ormai a colonie di germi e batteri, ma come l'avrebbe guardato una persona normale, esterna a quell'ecosistema. Di colpo mi sono reso conto che nessun esponente del genere femminile avrebbe mai accettato di avere rapporti con un ragazzo che viveva in quel modo. Ma quando i sensi comandano, dice la canzone, l'uomo obbedisce. Perciò in un solo pomeriggio più veloce della TAV e facendo obiettivamente una giusta analisi costi-benefici, ho pulito, spazzato, lavato, sgrassato, deodorato e profumato, faticando peraltro non poco a eliminare la palizzata di spiedini dal piano cottura. Finché poi, disfatto e distrutto, mi sono appostato, fresco come una rosa appassita, al citofono per dare a questa ragazza il benvenuto. E sono stato lì, al citofono, per un po', attendendo il suo arrivo. Lei si chiamava Paola. Io ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato, ma lei non è arrivata. Dopo qualche ora sono andato a letto, da solo, tra le lenzuola così fresche di bucato che ho faticato a prendere sonno. Per riuscirci ho dovuto spargere qua e là qualche vecchia briciola a farmi compagnia. Bravo Leo. Ce la facciamo, Giorgio, da Firenze? Sì, c'è una nota amara, sì, sì, anche su un pezzo triste. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, intervengo sì. A proposito di una modifica legislativa che è stata approvata durante la pandemia e che nulla ha a che fare con la pandemia stessa, ossia il PD si è dato briga di presentare un emendamento con cui sono stati aboliti i voti nella scuola elementare. Nulla a che fare con la pandemia, ma è un provvedimento. Secondo che... me è un'ipotesi, ma non è passato. Non è ancora passato. Io sapevo che era passato. E comunque il fatto che sia stato sfida presentato Lucchetti, sfida Lucchetti, adesso vediamo un po' se è passato. Dica intanto. Sostanzialmente un provvedimento del genere tradisce l'impostazione culturale del PD, che è sostanzialmente antimeritocratica, sia nei confronti degli studenti, ma anche nei confronti dei docenti. Perché la pandemia sta diventando l'occasione per un'ulteriore, ennesima immissione in ruolo ope legis. Questo approccio culturale pervade tutta la sinistra, ma duole anche notare che anche dalla parte dell'opposizione non c'è una vigorosa opposizione e valorizzazione del merito. Lei parla come un libro stampato, mi piace Giorgio. Devo andare però al giornale radio, al limite la recuperiamo dopo. Cioè, comunque lei dice hanno passato questo emendamento, ma sfida Lucchetti, voglio capire se hanno tolto i voti decimali dalle elementari. Però poi lei adesso dice un attacco alla sinistra, ma lo recupero. Adesso mi diranno l'hai sfumato perché era contro la sinistra. Anche no, c'è il giornale radio, lo recupero dopo il giornale radio. Giorgio da Firenze, dopo il giornale radio, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo qui, 17 minuti, allora abbiamo... C'era Giorgio da Firenze che doveva recuperare e completare. Giorgio? Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Come voleva completare? Sì. Io vorrei completare affermando che l'approccio culturale della sinistra, ma ahimè non contrastato neanche dall'opposizione, è quello antimeritocratico che pervade la nostra cultura dal 68 in poi. La Democrazia Cristiana purtroppo ha rinunciato alla formazione culturale lasciandola in mano alla sinistra e all'interno del paese si è sviluppata una cultura antimeritocratica per cui si abolisce il voto alle scuole elementari, si immettono i docenti o per legge. Non è che si abolisce, si cambia, sostituisce. Insomma. Cioè, a parte che già adesso si dà un voto in decimali e poi c'è una spiegazione materia per materia. No, si dà un giudizio complessivo, una valutazione un po' più articolata. Si vuole forse togliere il voto 4, 5, 6, 7 che è un po' secco e mantenere in realtà il voto numerico vuole essere abolito, vuole sostituirsi con un giudizio e io non riesco a capire intanto da parte delle famiglie è molto più chiaro un 4 o un 10 piuttosto che i giudizi con cui si cerca di nascondere la realtà. Sì, secondo me questa idea di dire per esempio il voto, cioè 5-4 accentua le disuguaglianze, è diseducativo, queste sono le follie. e su questo posso seguirla. Io penso che si possa dare un voto decimale e poi una spiegazione per iscritto un po' più estesa, come viene fatto, e poi se uno fa un colloquio con gli insegnanti, in più c'è anche il guardarsi in faccia e parlare di come va un ragazzo, un ragazzino, un bambino. Cioè, io ricordi per che carità, qualche tempo fa è tutto importante mettere... la discussione, ma sì, le faccine, qualche tempo le faccine. Fa, le faccine, sì, sì, gli emoticon, abbiamo parlato, il posto dei voti. Le faccine, perché il voto è troppo umiliante, un bambino non capisce il 4, il 5, ma mi sembrano discussioni che dopo un po' mi ricordano il vecchio Benigni quando faceva la gag per risolvere il problema in Medio Oriente, che voleva porsi lì in mezzo e urlare a tutti: che c'è? Tu cosa vuoi? Tu cosa vuoi? E magari parlandosi, guardandosi in faccia, si risolvono le cose. Perché io non ricordo, c'è mai ancora una soluzione univoca. Al liceo, che al cosa? Liceo, in terza liceo, quando presi 3 in latino al primo compito in classe, ce l'ho ancora molto impresso. E i miei io, genitori mitico. Mi chiusero in camera a studiare per una settimana e dopo andai decentemente in latino. Però è vero che i voti a volte restano molto nella memoria. Sì. In terza liceo matematica, in terza, con il professor mitico e mitologico che saluto, Antonino Toscano, 3,5, 4,5 il primo quadrimestre e poi 5,5 perché faceva 4 compiti. In terza oggi ti ritrovi liceo. A parlare 3,5, 4,5, 4,5, 5,5. Sì. Oggi no, ti ritrovi sì, a pontificare alla radio con quei voti. Ma. Sì, però se avessi detto ora ti ritrovi a insegnare matematica in un liceo scientifico ti avrei seguito. Ma, poi peraltro il secondo quadrimestre ho preso 6,5, 7,5, 8,5, 7,5. Ma ha dato solo 7. Ce l'ho ancora qui, contro, puntavo all'8. Sei contro la meritocrazia, dentro tutti senza guardare i voti. Tutti dentro, via! Dentro allora, tutti. Salutiamo Fiorenzo Bresciani che torna con noi, l'abbiamo chiamato. Buongiorno Fiorenzo Bresciani, presidente e fondatore dell'ASUC, Associazione Uomini Casalinghi. Buongiorno Fiorenzo. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. L'abbiamo richiamato perché quando abbiamo letto che Tony Blair, credo da 50 anni, non lo so, dal 92, non lava un piatto, non fa una lavatrice, non fa una lavastoviglie, non stira, che uomo triste. Fiorenzo, mamma possiamo mia, dire? Tristissimo, che uomo... tristissimo. Mamma mia, che tristezza. C'è ancora questa, a casa Blair c'è ancora, sai cosa mi ha stupito? Lo stupore di Blair che intervistato ha detto, gli hanno detto, ma chi è che fa tutte queste cose? Ah non lo so, evidentemente mia moglie, cioè non se ne accorge non neanche. Si rendeva conto neanche se c'era bisogno di collaborazione proprio, no? E non aveva nessun pudore. Sì, esatto. Vogliamo spiegare che non è che insomma è un po' non più moderna la discussione, la donna fa tutto, l'uomo non fa, purtroppo un po' è ancora molto, così. È molto strano che si parli ancora di uomini casalinghi, è una cosa molto triste che già nel 2020 si deve continuare a ripetere le stesse cose da tanti anni ormai. E bisogna dire che la gestione della casa va presa, va gestita, un maschio o la femmina, qualcuno si deve prendere la responsabilità di gestirla. E perché allora, mi chiedo, c'è bisogno di meravigliarsi tanto o di stupirci come ha fatto Tony Blair, che qualcuno fa lavori per la famiglia? Certo, non riesco a capire proprio perché lui no abbia... sì, ma lui ha gettato un po' con una battuta in un'intervista al Sunday Times, è un po' andato nei vecchi cliché, come dire, l'uomo di casa, l'uomo non esiste, l'uomo in casa fa tutto la donna, ecco, così, ma la no? Dimensione casalinga è un modo di essere che appartiene a ogni uomo, manager, professionista, operaio, impiegato, sportivo, smessi i panni professionali, siamo tutti anche casalinghi, svolgere all'interno della casa qualsiasi faccenda domestica. Lasciati i panni del proprio lavoro, entriamo in casa, quando entriamo in casa dobbiamo gestire di nuovo la casa, un uomo o sì, donna che sia. Io sempre dillo a Manera che c'ha una zucchina marcia da 25 giorni in frigo, no, la tiene marcia, lì, è lì bella sana. No, dicevo io quando ho convissuto ho sempre collaborato nei lavori domestici, anche perché mi sembrava veramente sgradevole, no, vedere una persona che li faceva e io magari che non me ne occupavo. Però l'approccio secondo me è diverso nel fare i lavori domestici tra uomo e donna. La donna a volte lo fa in modo più metodico e a determinati orari, sa, l'uomo invece fa quando vede che le cose un po' si accumulano, quando diventano ingestibili. Non sono tanto d'accordo anche con un po' fatto. No. Nella nostra associazione, che siamo quasi 7.000 iscritti, devo dire che c'è tantissimi uomini che gestiscono la casa e sono responsabili, gestiscono in una maniera talmente pignola che vanno a vedere anche, per esempio c'è l'esperto che rifà il letto, o c'è l'esperto che sta tutto sull'aspirapolvere, oppure sulla cucina anche, tutte le ricette, ogni giorno tira fuori nuove ricette nuove. Poi c'è anche quella tipologia di uomo che magari deve accatastarsi sempre più i piatti e le pentole senza mai lavarli, però meno male che sono in minoranza. La tipologia, quella è il manera, il proprio esempio, è la tipologia, cioè Piero Angela ne ha fatto una puntata, il manera, poi c'è il manera, l'uomo che quando vede accatastarsi. Da buon casalingo ho scovato un rimedio efficacissimo contro il calcare, che non è i prodotti. No, l'acido citrico, sbagliato. No. Sì, ma vuoi insegnare a Fiorenzo Bresciani, vedi un po'. Ma no, sì. È un sale che si chiama solvalina, è una specie di sale che elimina ogni tipo di calcare senza prodotti chimici, funziona, che è una meraviglia. Naturalmente sono sponsorizzato dalla solvalina. E anche oggi, esatto, anche oggi ha fatto la pubblicità e ha la sua buona dose di fornitura gratis. Di questo. Vabbè, Fiorenzo Bresciani, ma sai cosa mi ha stupito? Appunto che... Tra l'altro Sherry Blair, cioè la moglie, l'ha un po' ripreso dicendo effettivamente da quando è uscito da Downing Street, cioè da quando non è più premier da un bel po' di anni, la rieducazione è complicata, perché un conto, leggevo oggi Marina Terragni sul quotidiano nazionale in un commento, un conto è se uno deve decidere di mandare le truppe in Iraq, magari è una scelta che ti assorbe completamente, ma se adesso Tony Blair ha unico lavoro da fare, portare avanti una fondazione, ma potrà bene anche lavare dei piatti a casa, solo che la rieducazione, ha detto la moglie, è complicata e lunga da quando è uscito da lì, dal ponte di comando. Sono d'accordo con la moglie, sicuramente è molto complicata e molto lunga, perché non è abituato a gestire, perciò lui è a gestire ma altre cose, non la casa, perciò è un po' durina, credo, a farlo ritornare sui vecchi passi, magari. Sì, anche se ha detto che i tre figli maschi fanno tutto a casa, certo, non hanno imparato dal padre, ecco, questo si può dire. Fiorenzo, noi ringraziamo Fiorenzo Bresciani, presidente fondatore dell'associazione Uomini Casalinghi. E allora, vuoi fare uno spot alla Solvalina? Fallo bene, di uno slogan. Solvalina. Hai problemi di calcare? Via. Nel bagno, in cucina, in qualsiasi ambiente della casa, non ricorrere all'elisir del dottor Meazza, ricorri invece a Solvalina, il sale privo di ingredienti chimici che risolverà definitivamente ogni problema di calcare. Solvalina, e l'elisir del dottor Meazza va in pensione. Cioè, ragazzi, ma cos'è il genio, come diceva quello là di Amici Miei? Eccolo qua. Quanto pensi di ottenere di fornitura per 10 anni di Solvalina con questo? Guarda, una scatola dura 3-4 mesi, anche di più. Quindi me ne bastano una ventina di scatole per arrivare. Perfetto. Quando non potrò più fare alla vecchiaia, va bene. Sì. Andiamo al traffico. Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Manera e Milan, ma se andavate a scuola a scaldare i banchi non è mica colpa degli altri, bisogna studiare per prendere dei bei voti. Non è vero, parli per Manera che ricordiamo ha fatto qualche esame di giurisprudenza e poi l'ha abbandonato. Manera. Ad ogni modo io alle superiori non sono mai stato rimandato, vorrei far notare questa cosa. Mai grazie rimandato e mio mai bocciato. Sei mai stato rimandato ma bocciato 4 volte però. No, nemmeno. Avevo una certa capacità dialettica e una volta il professore di matematica mi disse: Bonetti, tu sei un venditore di fumo, mi disse. Cioè riesci a rimediare alle tue carenze, diciamo, in preparazione allo studio attraverso le parole. In questo senso mi disse che ero un venditore, che è poi la cosa che ho continuato a fare per tutta la vita. Quindi il professor Brunelli Brunero aveva. No, nel senso che ho utilizzato sempre le parole. Ho capito. Signor Bonetti, ricordiamo nome d'arte Leonardo Manera. Allora, noi qua sì. Si ride, si scherza, raccontiamo cose anche leggere, ma alterniamo momenti leggeri anche a momenti di profonda riflessione, come quella che vorremmo fare con l'ospite che saluto per raccontare questa storia che ci ha molto colpito. È un prete, si tratta di Don Daniele Simonazzi, è cappellano all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Buongiorno Don Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi e chi ci ascolta e chi vi ascolta. Allora, perché? Perché ci ha colpito leggere questa storia che avviene a Reggio Emilia, il nome della persona, insomma, non lo diciamo il nome di battesimo per tutelare l'identità, ma è una persona che è in carcere perché ha commesso un omicidio, deve scontare credo 30 anni, un omicidio fatto tra l'altro sotto effetto di alcol e droga, insomma. Però questo ragazzo, questo uomo, aveva un sogno, se non sbaglio, che era quello di diventare prete ed è diventato prete in carcere, scontando durante la pena da scontare. Cosa ci può raccontare di più, Don Daniele, di questa storia? Vorrei fare due precisazioni. La prima è che gli OPG sono chiusi. Io ero cappellano quando c'erano ancora gli OPG, sì. Adesso però gli OPG sono chiusi, ci sono due sezioni che si chiamano dell'articolazione della salute mentale, ma Luigi, per dirla, appartiene non a queste due sezioni, ma alle sezioni dei detenuti normali, tra virgolette. Normali, no? Sì, non psichiatrici, cosa. Certo. L'altra cosa è che lui non è diventato prete, cioè lui ha consacrato la sua vita al Signore, ma è come i frati che non diventano padri, cioè fanno i voti, però di povertà, castità, obbedienza, però non è che dica la messa. Ha consacrato la sua vita al Signore. Ecco. Ah, questo è bene precisarlo. Perché sa, noi spesso raccontiamo, quando raccontiamo anche storie di carcere, insomma, il carcere deve essere anche redenzione, oltre che scontare la pena, deve portare a un percorso di recupero. Questo nell'ideale. Lei che è cappellano forse vede tante situazioni nelle carceri dove non è facile questa parte del recupero. Non è facile, però credo questo. Mi appello al Vangelo di domenica prossima, cioè Gesù benedice il Padre perché ha rivelato le sue cose ai semplici, ai piccoli, anche se Luigi per la sua storia non è che sia una persona semplice nel senso deteriore di come a volte lo si intende. Lui aveva questa idea di consacrarsi al Signore fin da piccolo e a cominciare dal fatto di rinunciare a farsi passare per infermo di mente al momento dell'appello. L'avvocato gli aveva suggerito questo, lui non ha voluto per questione di coscienza, anziché 10 anni come avrebbe probabilmente preso, ha subito una pena di 30 anni. E quando, parlando con me, lui aveva manifestato l'intenzione, una volta uscito, di consacrarsi al Signore, io gli ho detto: ma guarda che lo puoi fare già da adesso, perché non c'è nessuno che possa vivere la povertà, la castità e l'obbedienza più di quanto non la viva uno che vive in una condizione di detenzione. C'è da dire questo, che la cosa importante non è tanto il fatto, la cosa importante è stata una sua scelta personale, un suo cammino, ma le cose importanti sono state alcune, cioè la prima è che il vescovo nostro, il vescovo Massimo di Reggio, ha preso molto sul serio la questione, cioè è venuto, l'ha incontrato, ha fatto un discernimento. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che in carcere non ci sono solo dei detenuti. In carcere c'è una chiesa, che è la chiesa in carcere. Per cui io non sono solo mandato dalla chiesa, o Don Matteo che è l'altro cappellano, non siamo solo mandati dalla chiesa in carcere. Noi siamo lì a presiedere delle comunità, per un motivo molto semplice. Perché sono comunità che ascoltano la parola di Dio, che celebrano l'Eucaristia e che vivono la carità. Ecco, è chiaro che la carità non è la carità di chi fa il bene a favore dei poveri, ma lì siamo tutti povera gente e quindi è una carità condivisa che parte dalla condivisione di una condizione. No, è chiaro che insomma è una storia talmente singolare, non so, io non so quanti precedenti ci possano essere di storie di redenzione, di percorsi di questo tipo del carcere. Chi fondò la nostra famiglia religiosa, che era un prete di Reggio, chiamava Don Dino Torregiani, lui aveva il coraggio di dire ai detenuti che non c'è nessuno meglio di voi che possa vivere una totale donazione del Signore. Ecco, la vostra telefonata mi ha aiutato a capire che forse non è una cosa ordinaria che capita spesso, ecco, però anche a chi ascolta... Diciamo, percorsi di redenzione, sì, questo tipo di percorso, cioè arrivare a non diventare prete, sì. Ma questo qui è questo molto particolare. Forse Don Daniele ha notato, forse vedrà e osserverà che la dimensione carceraria porta a far nascere in molti una visione più... di vicinanza nei confronti della religione, questo magari in persone che fino al momento in cui sono entrate in carcere non avevano neanche minimamente preso in considerazione questa via. È vero, però io ho l'impressione che più che avvicinarsi alla religione, mi pare di cogliere questo, è la persona del Cristo che la sentono particolarmente vicina a loro. Cioè delle volte quando si parla di perdono da parte di Dio, quando si parla di perdono da parte di Gesù, a volte i primi increduli della possibilità che rispetto a ciò che hanno compiuto possano essere perdonati sono proprio loro. E c'è questa meraviglia, questa commozione, queste lacrime di fronte all'annuncio del Vangelo che ad esempio io che sono parroco difficilmente colgo nelle assemblee domenicali. E questo avviene anche quando non si ascolta il Vangelo a messa solamente, ma quando ad esempio come oggi, fra un po' vado dentro, prepariamo la liturgia. E l'omelia, ad esempio, è fatta tutta su interventi che fanno loro in queste occasioni. E lì, più che un avvicinamento di loro al Vangelo che c'è, colgono proprio come il Vangelo che si avvicina a loro. Sì, naturalmente per noi che siamo fuori, anche per chi conduce una trasmissione radiofonica, voglio dire, pone dei grossi interrogativi, perché noi diciamo, ma e allora noi quella è l'ultima volta che ci siamo commossi davanti a una pagina di Vangelo? Quando è l'ultima volta che abbiamo visto il Cristo venirci incontro? E domenica prossima c'era appunto questo Vangelo che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi darò sollievo. In tutto questo, lei che ha a che fare spesso con i detenuti, quanta parte ha il senso di colpa da parte appunto dei detenuti stessi? Questo io avvicinarsi... Nei nostri ambienti nasce la consapevolezza di quello che è accaduto nella misura in cui si stanno perdonati, cioè è il perdono che suscita la consapevolezza di quello che è avvenuto, cioè la preghiera di Luigi ad esempio, per la persona che lui ha ucciso, che non è una preghiera scontata o formale, perché lui non ha bisogno di, cioè uno che ha preso 30 anni voglio dire non ha bisogno di scusarsi o di trovare fuori delle scuse, ecco. Però vedo sempre anche lì immagini del Vangelo in cui Gesù dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, e Gesù non aspetta una confessione o non aspetta, non è un premio il perdono. Il perdono è dato gratuitamente e sapersi perdonati chiama in causa nel cuore delle persone tante volte, spesso chiama in causa proprio la consapevolezza di quello che è avvenuto. Tanto è vero che poi, per quanto ci riguarda, il tema, ad esempio, dell'incontro con i carcerati, a partire dalle vittime, cioè a partire dal male che loro hanno fatto subire agli altri, questo è uno dei temi su cui riflettiamo anche come cappellani a livello nazionale. Certo. No, ma guardi, Don Daniele, noi la ringraziamo, ripeto, Don Daniele Simonazzi, che è parroco, ma anche cappellano a Reggio Emilia, al carcere, ci ha raccontato questa storia di redenzione, di percorso di redenzione. Poi io lo so che quando si raccontano queste vicende ci sono sempre le polemiche, ma non pensate alla vittima, eccetera, mentre invece Don Daniele ci ha spiegato bene come questo percorso, nel caso di Luigi, nome di fantasia di questo carcerato, abbia portato a tutta una sua vicenda personale di recupero, anche di prendere i voti, di fare questo tipo di percorso sicuramente insolito e per questo da raccontare, perché possa far meditare. La ringraziamo, Don Daniele. Dobbiamo andare alla borsa quando sono le 10:30 minuti. Borsa offerta da Solvalina, come potrebbe dirvi il buon Leonardo Manera. Non è vero, non è vero, ma andiamo a sentire come va. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. A proposito di voti, mi viene in mente quando il mio professore di elettronica mi mise 3++. Io andai da lui e gli dissi: ma professore, guardi, a me 3++ mi sembra una presa in giro. E il professore mi rispose: e allora ti metto 2. E io dissi: guardi, lo preferisco. Mia manera, quando ti veni a Masun, che te da due castagne, a gratis. Complimenti per la nuova comica, bello il duetto tra Emanuela, non ho capito come si chiama, e Manera, bello, brava questa nuova comica, ha fatto ridere tantissimo, veramente brava, comica eccezionale. Manuela da Milano, dalla provincia di Milano, ma le castagne, ho capito, ti danno le castagne da mangiare o sono le castagne, sono due centri in faccia? Due colpi sulla testa. Amazone mi vogliono bene, Amazone mi vogliono bene, perché io lo cito sempre e ho accresciuto in modo notevole la notorietà di questo borgo, anzi dovrebbero farmi cittadino onorario. Dovrebbero l'abbiamo già chiesto al sindaco, o almeno darmi uno spettacolo pagato bene. Ecco, ma senti, sono oggi una cerchi volta. dello sciogli calcare, peraltro Emma ti scrive che basta l'aceto. No, magari non balsamico, l'aceto. Vabbè, cerchi del dello sciogli calcare, cerchi uno spettacolo ben pagato Amazone, cerchi una cittadinanza onoraria anche, ma sei proprio disperato, si direbbe alla frutta. Io Amazone sono stato una sola volta a fare lo spettacolo benefico, quindi sarebbe giusto riequilibrare questa distonia che si è creata. Ecco, questo è l'appello che faccio ai cittadini di Amazone. Comunque, per tornare ai voti, 3++, beh, effettivamente, perché non è proprio 3,5, è 3++, cioè ben sopra il 3, ma non è ancora 3,5. Io, il record fu un mio compagno, che prese buono più o meno, e disse: ma più o meno si annullano, quindi dimostrando anche di sapere qualcosa di matematica, buono più o meno, sì, cioè comunque è quasi buono, però non è proprio quasi buono, se no gli avrebbe dato quasi buono, è buono più o meno. Pensavo che alla fine di tutta la carriera scolastica si ricordano molto di più i voti negativi rispetto a quelli positivi, cioè o io quelli mi ricordo bizzarri, i voti brutti, quelli bizzarri. Sì. Comunque i voti belli, tutte le volte che io ho preso 9, 10, 10 più, è non vero. Lo ricordo. Ricordo e quella volta in cui ho preso 3 in latino. Come sono quelli che sognano per tutta la vita la maturità. Io per tanto tempo ho sognato, adesso mi capita raramente, ho sognato che mancava un mese e nel giro di un mese dovevo presentare 4 esami per l'università, altrimenti non mi sarei laureato e quindi vabbè, insomma, classica situazione di laureato? Ansia. O hai millantato questa? Io sei mi sono laureato, falsi laureati d'Italia. Mi sono laureato in onore della nostra amica Letizia Puccioni con 105 su 110. Sì, un voto intermedio, sì, quei voti un po' così. No, come intermedio, scusa, da 60 a 110, sì. 105 su 110 in scienze politiche, certo che qualcuno dice vabbè, adesso quando è che prendi una vera laurea, mi rendo conto, sono la battuta voti, questa l'accetto. Però, 105 è uno di quei voti per i quali i parenti non vanno via proprio contenti. Perché avevo il sogno da sempre della radio e quindi ho preso anche il voto 105. Se mi davano 102 gli dicevo no, datemi 102,5 piuttosto. Che dicono, 104,8 che preso? È la frequenza di Milano, 104,8 purtroppo non era fattibile. Insomma, i parenti erano contenti del tuo 105 o un po' delusi? Parenti speravano... serpenti, ma no, certo, erano contenti, speravano in un 110, in un 108, certo. Però gli ho detto che FM finisce a 107 più o meno e quindi non aveva senso, cioè bisognava prendere un voto tra i 90, tra gli 88 FM e i 107, 108, ecco, 107. Vabbè, finiamo questa stupida querella, questa polemica sterile. C'è Franco d'Alessandria, buongiorno Franco. Buongiorno. Eccoci qui. Io vi ho battuto tutte e due, perché con il dettato di francese da noi spesso si andava sotto zero, io mi ricordo dei -3. però arrivare a zero ma che senso ha dare? Adesso io mi appello all'insegnante che le ha dato meno 3. Ha presente, ma cosa vuol dire? Che è pieno di accenti. Certo. Un accento, sì. un voto. Ah, si parlava da 10, si partiva da 10, un errore 9. Ah, ecco, giusto. A prendere 6 ci riuscivano pochissimi, guardi che media. Poi un'altra bella forca caudina era greco antico, lettura in metrica. Lei ha fatto il classico, quindi. Sì. Lo scazzonte, sì. Me lo ricordo. Non l'ha detto con un tono, come dire, colui che ancora è terrorizzato. No, lo scazzonte vuol dire che zoppica, no? E bisognava nella metrica calare, che poi bisogna essere un attore, magari Manero ce la faceva. Io avevo. Lei, ci faccia un esempio. Ci dica un verso di greco antico che ancora ricorda. No, per carità, per carità. Non ricorda niente di greco, ha tutto rimosso dalla sua vita. Non c'è nulla. Ma greco qualcosa, ma greco è più difficile del latino, molto più difficile. Ma ci dica una parola, ha fatto 5 anni di greco, si ricorderà una parola o meno. Poi le tante sono anche nel greco moderno, agora, fobia, democratia, eccetera, eccetera. Però è completamente diversa la grammatica e la sintassi, molto più semplice quella moderna. Sembra che lei il greco l'ha subito in maniera terribile. Come ancora si non dice? È si copiavano i compiti, cosa vuole? Viva la meritocrazia! C'era un mio compagno che era un genio, no? Che avrebbe meritato 10 in tutte le materie. Lui faceva i due compiti delle due file. Il problema per me è che dovevo aggiungere qualche errore, no? E allora gli errori andavano anche studiati, qualcuno da dire da disattenzione, qualcuno da dire questo ha capito un tubo, cioè da arrivare a 6, quello è il discorso. Adesso lei che lavoro fa? Che lavoro fa adesso lei? No, per sapere. Ma adesso sono un po' inattivo. Comunque, poi ho fatto ingegneria, ho lavorato in elettronica, in informatica, eccetera, eccetera. Inattivo, speriamo non, cioè disoccupato. No, chiuso la ditta perché non c'era più motivo di stare aperti, quindi faccio qualcosa, ma tanto così da divertimento. Per divertimento, che bella questa cosa, anche poter vivere e lavorare per divertimento. Infatti. Mi diverto, faccio un po' di lavoro. Evidentemente ha dei soldi da parte, però, caro Franco. Cosa vuole? Non mi sono sposato, non ho figli da mantenere, quindi cosa vuole? Vabbè, ripassi un po' di greco. Vogliamo un po' di amarezza anche in queste sue parole. Sì. C'è un po' di amaro. Secondo te sì, Leo? Un po' sì. Vi saluto, siete due fenomeni, Franco, bravissimi. Su questo Franco ci abbandona, sull'amarezza della solitudine. Franco non vuole dire una parola di più, una parola di ho più. Ho sentito se ne una nota di amaro in Franco. Ragazzi, devo dire amaro che Franco. Un'ascoltatrice dice che la tua gag sul frigorifero non fa per nulla ridere, questa storia del frigo vuoto. Ieri c'è stato questo accanimento da parte mia, devo dirlo. Ho fatto la spesa e quindi ho messo una bella foto del mio frigo pieno, ma solo per fare dispetto a Manera, cioè a me non interessa mostrare, come dice subito la responsabile dei programmi nostri, Alessandra Scaglioni, mi ha scritto su Facebook che voglio mostrare l'opulenza, ma no, ma quale opulenza, ho fatto la spesa, volevo fare un dispetto a Manera, ho messo la foto su Facebook del mio frigo pieno, tutto qua, è giusto per dargli ma io non metto la foto della zucchina perché voglio far ridere, la metto per far sapere come era stato pietà. Il mio frigorifero. No, no, nemmeno, non ho che rappresenta un po' lo stato tuo, per esempio. C'era una boccia d'acqua, giustamente l'Alpino, c'è una boccia d'acqua, perché vuoi l'acqua fresca, immagino, del rubinetto, e giustamente l'Alpino ha detto, mi immaginavo di vedere un bel pesciolino rosso in quella boccia d'acqua dentro il frigorifero. Ci ha pensato, è una buona idea, potrebbe arricchire, migliorare il sapore dell'acqua di rubinetto, mi procurerò un pesce rosso, lo metterò. Magari uno di quei pesci che ama i mari freddi, però se possibile, che così apri al mattino il frigorifero, toh, guarda qui il pesciolino dai mari artici che mi guarda. Comunque, io nel mio frigorifero tengo l'essenziale. Adesso non capisco perché tutti sono apparentemente contro gli sprechi e poi vengono a lamentarsi con me, mi denigrano se io nel frigo tengo l'essenziale. E questo è un principio giusto, è un principio giusto tenere l'essenziale per non sprecare cibo. Infatti io quando purtroppo a volte del cibo va sprecato, perché che ne so, c'è la bresaola, mi aprono la bresaola, me la lasciano a metà e poi si rinsecchisce e io mi arrabbio molto con i figli. Però a quel punto le due fettine devi buttare, mi dispiace, e quindi il principio è giusto, ma c'è un limite oltre, sotto il quale non andare. Cioè non puoi tenere una zucchina da 20 giorni in marcia in frigorifero. Ma non è marcia, quello è un limite superato. Quella zucchina non la mangerò, la tengo come simbolo. Tu un simbolo, vuoi comunicare al mondo che quel figo ti rappresenta, sei in un momento di cupezza, sei in un momento di abbandono, sei in un momento di... È l'analisi spicciola di Alessandro Milan, le analisi spicciole. Oggi stiamo facendo chiamare molto Emanuele, la nostra psicologa, che magari ti dà un'analisi del frigorifero, catto comunista. Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ah, ma nera, la solvalina non sarebbe un prodotto chimico? È un prodotto semiacido. È un prodotto chimico. Ciao Milan, ciao Manera, siete eccezionali, vi adoro. Io sono riuscito a prendere uno zero meno. Per protesta consegnai il foglio in bianco, però purtroppo sbagliai la data. Quindi il professore mi disse, benissimo, ti do zero perché in bianco, meno perché hai sbagliato anche la data. Sono cose della vita. Era protesta civile però. Ciao cari, primo voto dello scritto di informatica in terza superiore, anno 1982, scritto sul foglio, testuale, 3 e ringrazia Dio. Ciao. Manera, te lo dico in dialetto, paracul, che capisci tu, sei un grande, grande Milan. Ciao ragazzi. Buongiorno, volevo sapere, ma Manera c'è anche il prossimo anno? Questa è la domanda che catapulta me, Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi Radio 24, nonché Leonardo Manera e forse anche il direttore personale e financo il direttore, nello scompiglio più totale. Prego Leonardo, una risposta è doverosa, i nostri ascoltatori chiedono e tu devi dare una risposta, è giusto. Attenzione, senti, guarda, già l'app non funziona, appena c'è una domanda complicata l'app fa le bizze. Dai, la tua risposta chiara, eh? Niente, è scomparso. Ci sono, vi rendete ci sono. È scomparso. Sono. Fa come l'ascoltatore, appena gli chiediamo di essere singolo. Sono qui. No. Sì, sì. Sono qui, dici. Sono riapparso. Allora, quindi? La mia risposta chiara è, adesso vediamo un attimo, il tempo di arrivare a fine luglio. Sai cosa mi è successo ieri? Ieri. Cioè, senti come cambia discorso. No, ti spiego. Allora, sabato prossimo ho lo spettacolo. Voglia di lavorare, saltami addosso, sì? Sabato prossimo ho il primo spettacolo dopo tutto il lockdown, il sabato 11. Non dopo domani, sabato 11, no, sabato ricordiamo 11. Bene, dove? A Numana. A che ora? Alle 21.30 circa, in piazza, in una piazza di Numana. Che piazza? Una piazza. E, che piazza? Allora, un nome una piazza non sarà piena di piazze in Umana, non è Roma, cioè in Umana ci saranno due o tre piazze. Sfida Lucchetti? Non so. Sì. Allora, ho delle cose nuove che devo imparare, ma soprattutto delle cose vecchie che devo ripassare. E ieri mi sono reso conto che non ho più memoria di nulla. È come ma se dai. La mia testa avesse completamente cancellato una parte di quello che c'era prima. E ho fatto non mi ricordo più niente. È non un hai talmente memoria che non ti ricordi che te l'ho ricordato io 10 minuti fa che non hai memoria. Ma esatto, ma guarda, è veramente ti sei dimenticato un problema. Anche che ti ho detto che non hai memoria 10 minuti non fa. Non ricordo più niente. Allora, niente. Ieri sera sono andato a prendermi un video di uno spettacolo di qualche tempo fa per vedere se ricordavo. Purtroppo il video si blocca, non so per quale motivo, si vede che non viene letto regolarmente e si vedono solo i primi 10 minuti. Io quindi non so come fare sabato prossimo a Numana perché sono completamente senza memoria delle cose vecchie e sono pigro per imparare timoroso. Quelle nuove. Va bene. Allora, adesso facciamo così intanto. Ci penserai entro sabato, potresti non presentarti. Fatti da parte però. Sì, sì, fatti da parte perché magari non riusciamo a fare in tempo. Conserviamolo per lunedì, per domani. Fatti da parte che è arrivato il signor Elenio Mariotti con la sua educazione, con la sua educazione. Perché non lo conserviamo per domani? Elenio Sardina. Sardina Elenio. Sardina Elenio, come sta? Come sta? Era meglio conservarlo per domani. Va bene, questo dai, c'è Mauro dalla provincia di Massa. MS Massa, Massa, pronto Mauro? Mauro. No, ormai è tardi ormai. Sì, sei veramente una vergogna. Mauro dalla provincia di Massa, dispiace moltissimo, sì. Ci tenevo molto a fare questo pezzo, Mauro, ma ormai il tempo sentiamo Mauro, prego. Ciao, Mauro, ciao. Ciao, veloce. Ho fatto lo scientifico. Il primo anno si fa disegno tecnico e mi andava bene. Il secondo anno disegno architettonico a mano libera. Ci ha dato il professore delle fotografie di ruderi romanici o greci, non lo so, da fare, senza dirci come fare. Io ci ho messo un mese, ho consegnato. Un mese? Il professore mi ha portato... Ha guardato il foglio, mi ha riguardato il foglio, poi ha detto: bravo Cuomo, il mio cognome, bravo Cuomo. Un punto di incoraggiamento, mi ha dato uno. Uno, un punto di incoraggiamento. Ma scusi, ma che professore è quello che non spiega come fare? È proprio... Forse c'è scritto sul libro. Era un anziano che faceva il pittore, a Pietrasanta... insomma, lasciamo perdere, era un po' così. Io sono stato l'unico della provincia che ha fatto ripetizione di disegno. Interessante. Cioè, lui, gli altri manco l'hanno fatto. Mauro, disegno architettonico a mano libera. Insomma, cioè, doveva riprodurre, no? Riprodurre il disegno. Sì, bravo, Mauro. Mauro, senta. Mauro, lei vive ancora a Massa? Io vivo a Fivizzano, in provincia di Massa Carica. Fivizzano, c'è anche una varietà. Come si vive lì? Perché non è una delle zone più quotate della Toscana. Intanto si col sente cellulare un po', che non si sente. Si sente male. Si sente male, sì. Ma come si vive in quella zona, Fivizzano, che è una delle zone meno conosciute sentite della Toscana? Sentite maniera, anche pur di non fare meno... il pezzo, chiede di come si vive a Fivizzano. Si vive tutto no, perché bene. È una zona... Sì, una sì, prego, delle prego, zone meno prego, Manera, della prego, è interessantissimo, diciamo, meno... cioè, ci si sveglia, si beve un caffè a Fivizzano, si va in edicola, si va al bar, poi si va a lavorare, insomma così si vive, no? pur di non fare il pezzo. Le prego. Chiedo solo, se lei non si è demoralizzato negli anni a vivere a Massa e a Fivizzano, che sicuramente non sono le zone migliori della Toscana, non ha mai pensato di andare altrove, che lì non si troverà bene, immagino. No, per nulla, io mi trovo benissimo, mi dispiace solo benissimo. Che non vedo più il mare. Come vedevo a Spezia, è molto meglio per Fivizzano che noi una di quelle zone tutte per Benino, tutte infighettate che sono piene che di... non va bene. Comunque Mauro, va benissimo, lei il suo ruolo l'ha compiuto, cioè impedire a Leonardo Manera di fare il suo pezzo per tenerlo per domani. E siamo quasi in chiusura, ce l'ha fatta, la ringraziamo moltissimo. Vi ricordo che Leonardo Manera sabato 11 luglio 2020, il famoso comico di Zedig, come annunciato nella rassegna Smile Numana, sarà alle 21:30, questa l'azzeccata, in Piazza del Santuario. Lo sapevi che sei in Piazza del Santuario? No, in una piazza, tu avevi detto. Ah sì, ricordavo, perché l'anno scorso ho fatto quella serata sempre lì e c'era il prete che si lamentava delle prove perché andava a interferire. Ha un problema. Ti ricordi questa cosa? Sta tornando alla memoria. Ecco, come risolvere i problemi di memoria di Manera da qui a sabato? Se ci scrivete a 100.000@radio24.it serve una solvalina per la memoria. Memoria di Manera, come fare? Scriveteci, domani vediamo come fare. Comunque sì. Quanta nostalgia. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno. Nessuno, 100.000.